Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria che si avvia alla sua naturale conclusione: meno 0,70% Milano come borsa, meno 0,30% Parigi, meno 0,60% Francoforte, invariata Londra e invariata anche l'America. Euro quota 1,32,62. Fitch, una delle tre agenzie di rating, quelle che danno i voti ai paesi, ha declassato il voto al debito greco, portandolo a un livello, diciamo, sostanzialmente l'ultimo livello, la C prima del default, del livello D, quello da fallimento. Questa sarà l'occasione sia per ragionare sul piano di salvataggio greco, che vedo oggi sui giornali a mente fredda molti osservatori iniziano ad avanzare qualche dubbio sulla tenuta. Ieri con il professor De Aglio usavamo l'esempio un po' della polvere sotto il tappeto per non creare tensioni sui mercati, ma dubito e è molto improbabile che questo piano possa essere rispettato dalla Grecia. Ma sarà anche l'occasione per parlare del ruolo delle agenzie di rating. Lo faremo con la numero uno di Standard & Poor's Italia, Maria Pierdicchi. Oggi ho fatto una doppia intervista a Salvadanaio sui temi più dell'investimento e a Focus Economia per quello che riguarda più le polemiche, quindi conflitto di interessi delle agenzie di rating, i loro azionisti, il fatto che vengono pagati da chi viene esaminato, il loro tempismo e il loro strapotere. Di questo parleremo appunto con la numero uno di Standard & Poor's Italia. 349-238-6666 per i vostri sms. Parleremo anche degli aeroporti e della SEA. Vi avevo annunciato ieri l'intervista e il bilancio presentato, ma anche nuove iniziative e come sempre in apertura faremo anche il punto sulla situazione dei debiti sovrani, nel senso che lo spread nostro oggi è stabile a 350 punti, quindi la differenza tra quanto non costi a noi indebitarsi rispetto alla Germania, e anche la Spagna è ferma a 315 punti. Tra l'altro però oggi si è saputo che c'è stata una vendita di bot BTP italiani nel mese di dicembre, attenzione il dato è su dicembre, in parte compensato dall'acquisto di bot BTP fatto dagli italiani, cioè gli stranieri hanno venduto, eravamo ancora con uno spread che amabilmente se ne stava a 560, 530 punti. Dicevo, si è avuta la conferma oggi che a dicembre moltissimi fondi stranieri hanno venduto, lo ha comunicato la Banca d'Italia, i disinvestimenti, cioè le vendite, sono state pari a 24 miliardi di euro, parzialmente compensate dagli acquisti degli italiani. L'inflazione ne parleremo in apertura e poi come sempre anche l'andamento del resto della borsa. Finmeccanica oggi è il peggior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione, perde il 5%, la Popolare Emilia Romagna perde il 4,3%, la Pop Milano meno 3,5%, il 3,30% lo perde Unicredit e il 3% Intesa San Paolo, ma anche UbiBank, il 2,70% il calo di Mediaset di Lottomatica, il 2,5% quello di Pirelli, il 2% il calo di Buzzi, Unicem e Telecom Italia, ma anche ST Microelectronics. Generali più 4% il miglior titolo, invece Monte dei Paschi più 3%, Mediobanca più 2,60%. Il numero uno di AXA, il colosso assicurativo francese AXA, è stato visto entrare oggi a Piazzetta Cuccia, ossia nella sede di Mediobanca, che è la banca più esposta con il gruppo di Ligresti, Fondiaria SAI, e subito sono scattate le ipotesi di una controfferta francese, visto che dentro Fondiaria SAI intanto sono entrati sia Matteo Arpe, anche e soprattutto Matteo Arpe con il fondo Sator, smentita poi di Mediobanca, un normale incontro e che dovevano dire. Ma comunque parleremo anche di Fondiaria SAI. L'ultima cifra riguarda non i vostri sms, quella è sempre 349-238-6666, il numero, ma il rapporto di cambio euro-dollaro, siamo a 1,32,57. petrolio. Allora, l'oro oggi, come avviene ormai da un paio di giorni, anche forse di più, si è riportato a 1755 dollari l'once. Il petrolio poco mosso ma sempre forte a 105,9, quasi 106 dollari il barile. L'obiettivo della Grecia per il 2012 è portare il deficit non più al 5,5% come indicato a dicembre, ma al 6,7%. Già c'è una revisione, siamo solo a febbraio, dell'obiettivo greco. Non è un bel segnale, cioè vuol dire che la Grecia non riuscirà ad avere il deficit al 5%, se va bene l'avrà al 6,7%, però ripeto, siamo a inizio anno. Questo la dice lunga sulle difficoltà che la Grecia incontrerà. Fitch appunto ha tagliato il voto alla Grecia, portandolo da triple A a C. In questo momento l'accordo che regge è quello in cui i greci rimborseranno i loro prestiti dando solo il 53,5% del valore dei titoli, no? Il rimborso nominale è al 53,5%. Nel frattempo però, sempre sull'agenzia di rating, la procura regionale della Corte dei Conti del Lazio ha avviato indagini istruttorie sui giudizi di solvibilità dell'Italia emessi dalle agenzie Moody's, Standard & Poor's e Fitch. Nel frattempo si viene a sapere che le maggiori banche europee, ce ne eravamo accorti anche noi, sono corse ai ripari e sono molto caute nell'erogare credito. Cosa fanno? Mettono i soldi nelle banche centrali a caccia di sicurezza. Pensate che nel 2011 le 8 maggiori banche europee hanno depositato presso le banche centrali, con un basso guadagno ma un'estrema sicurezza, hanno depositato, dicevo, 816 miliardi di dollari in contanti. La cifra è stata elaborata dal Wall Street Journal, è il 50% in più rispetto al 2010. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nel 2011 le principali banche europee hanno preferito tenere i soldi con l'overnight, con un tasso basso, bassissimo, ma dentro le banche centrali, piuttosto che prestarseli o impiegarli. Pensate, 816 miliardi, il 50% in più rispetto al 2010, ed ecco perché parliamo di credit crunch, di stretta del credito, perché se le banche i soldi non li prestano ma li depositano come fanno le vecchiette con i conti correnti, è ovvio che alle imprese, le imprese vanno in asfisia creditizia, i privati vanno in asfisia creditizia, ed è tutto una crisi che poi si avvita. Adesso vediamo se cambierà l'atteggiamento bancario con uno spread più basso. Intanto l'inflazione a gennaio è in lieve rallentamento al 3,2% contro il 3,3% di dicembre, ma è molto forte l'inflazione importata, quella che arriva dalla benzina, dal diesel e dal gasolio, più 17% la benzina a gennaio 2012 rispetto a gennaio 2011, il gasolio più 25%. Io non posso tornare sul tema, tanto lo sapete. Invitiamo De Vita, lui ci dice che è tutto giusto, ci saluta e noi poi torniamo a fare il pieno. L'inflazione dei beni a maggior consumo, invece, quella del carrello della spesa, come la chiama l'Istat, è rincarata del 4,2%. L'analisi e anche il commento dell'economista Luigi Campiglio al microfono della nostra Anna Marino. Il rallentamento è proprio molto piccolo, anche se benvenuto ovviamente. Tuttavia, essendo il dato di gennaio, va ricordato che il tasso di inflazione nostro è 3,2, 3,4 per l'indice armonizzato, che si confronta con un 2,7 europeo, cioè in buona sostanza i nostri prezzi continuano purtroppo a salire di più di quanto salgono nella media europea. Presumo che in Germania e in Francia in particolare, perché questo avviene tradizionalmente negli ultimi 10 anni, siano aumentati almeno di un punto meno. Come mai da noi sono così in rialzo? In questo caso, nell'arco della dell'anno, in particolare sul capitolo dei trasporti della benzina hanno influito non poco 4 aumenti delle accise. Secondo, c'è stato un aumento di un solo punto dell'IVA e di qui anche un segnale per il governo, perché si parla di un aumento dell'IVA di altri 2 punti e se lo si decidesse si tenga nel conto che questo provocherebbe un aumento e un'accelerazione, diciamo, dell'inflazione che è ancora più alta di quella europea, mentre noi dobbiamo tendere invece a portarla al di sotto della media. Ancora 2 notizie, le liberalizzazioni. Vedo molti tassisti che scrivono al 349-238-6666. Allora, dalla bozza di un emendamento al disegno di legge sulle liberalizzazioni, sul quale ci sarebbe l'ok del governo, scompare il ruolo dell'autorità dei trasporti sulle licenze dei taxi, nel senso che saranno i comuni e le regioni a fissare, se necessario, l'incremento delle licenze taxi e sulla base poi delle indicazioni, delle analisi che fornirà l'autorità dei trasporti, indicazioni non vincolanti che però, se disattese, potranno essere impugnate dal TAR. Per quello che riguarda invece la separazione ENI e SNAM, sarà totale. Lo ha fornita la precisazione del sottosegretario allo sviluppo Claudio De Vincenti. Confermata l'indiscrezione del Financial Times, c'è una trattativa molto forte tra Peugeot, Citroën e General Motors per una partnership strategica. L'anticipazione era di oggi del Financial Times. E poi, sempre nel settore auto, sbarcano in Europa i cinesi. In Bulgaria, paese abituato al consenso, se non ricordo male, ma insomma, in Bulgaria oggi inaugurata una nuova fabbrica per produzione di automobili cinesi. È un accordo tra la Great Wall Motor, che è la più grande impresa privata cinese, e la Litex Motors dell'imprenditore bulgaro Grisha Ganchenev. Lo stabilimento di Lovec produrrà l'utilitaria Volex C10 e il SUV Over H5 e il pick-up Steed. Sono tutti destinati al mercato europeo, compreso l'Italia, quindi la prima macchina bulgaro-cinese. Una volta si sarebbe detto la prima macchina comunista, bulgaro-cinese, ma non è più così. In Bulgaria invece, mentre i cinesi sbarcano in Bulgaria, i greci sbarcano il lunario, scusatemi la battuta, ma insomma la situazione è abbastanza difficile anche oggi, non solo perché l'agenzia di rating Fitch ha declassato a un livello praticamente un gradino sopra il fallimento il debito greco, ma anche perché la Grecia ha annunciato che già deve rivedere a rialzo, quindi in negativo, le ipotesi di riduzione del deficit previsto per quest'anno. 349-238-6666 per i vostri sms. Eh sì, perché l'accordo resta quello del taglio del siamo praticamente, verrà dato il 53,5% del valore nominale dei prestiti ai creditori, quindi banche e fondi, e poi questo dovrebbe portare il debito greco, attualmente che è al 163% del PIL, al 120% entro il 2020. Ma il tutto se verrà confermato che Atene tornerà a crescere almeno nel 2014. E però, dicevo, l'obiettivo sul deficit del 2012 Atene l'ha portato al 6,7%, con un obiettivo altissimo, nel senso che in Europa la regola vorrebbe un deficit non oltre il 3% del PIL. I greci a dicembre avevano detto: va bene, quest'anno, cioè nel 2012, lo otterremo al 5,5% del PIL. Già hanno rivisto, dopo un mese e mezzo, le previsioni, sarà al 6,7%. E poi tornano gli economisti. Ieri Paul Krugman, che ha detto: insomma, attenzione, il problema della Grecia è che non avete la forza di cacciarla dall'euro e farla svalutare, né la forza, se no, di aiutarla veramente, non di fare dei prestiti che vanno ridati, ma di dare degli aiuti tipo piano Marshall. Oggi Kenneth Rogoff, professore ad Harvard, scrive sul New York Times:

come peraltro l'Italia, come peraltro tanti altri paesi, ma la Spagna aveva un 70% di debito su PIL. Poca roba. Poca roba. Poca roba, pochissima, eppure è andata sotto attacco speculativo immediatamente. Allora voglio dire, esiste un'Europa. Se noi guardiamo gli aggregati debito su PIL, l'Europa è messa meglio del Giappone. E degli Stati Uniti. E degli Stati Uniti. Non c'è dubbio. E della Gran Bretagna. Non c'è ma dubbio. Facciamolo sto passo in avanti, abbiamo aspettato troppo, questo ci stanno dicendo i mercati. I mercati stanno dicendo... Sì, c'è un piccolo problema, che lei dovrebbe spiegarlo in tedesco questo, nel senso che affinché lo spiega a me, capirà, io sono un latino, un popolo... che usa l'olio e quindi tendo a spendere, a lavorare poco, non assumermi le mie responsabilità, fare debiti, non a invadere la Polonia, diciamo, con Woody Allen. Però il problema è che lì l'asse tedesco, olandese e anche scandinavo comunque gioca un peso. La Francia non ha la forza anche politica sotto elezioni Sarkozy per smarcarsi completamente dalla Germania, vuole fare, diciamo, come la Germania, e quindi tutto si blocca, professor Togati. Questa è una considerazione importante. Io devo dire, perché così è, che l'ingresso di Mario Monti sulla scena europea ha rappresentato una svolta da questo punto di vista. Cioè, senza lasciarsi andare... la lettera che hanno firmato con gli altri 11, lasciando fuori Francia e Germania, secondo lei è un segnale? È un segnale forte. Il presidente Monti da tempo rilascia dichiarazioni in cui dice attenzione, sì, austerità, però gli equilibri sociali, le tensioni entro l'Europa, quindi mostrando una, cosa devo dire, una ricchezza di pensiero, una capacità di intravedere altri problemi anche, no? E poi questa cosa, che questa dichiarazione l'ha firmata anche l'Olanda adesso. L'ha firmata anche l'Olanda, sì. E quindi vuol dire c'è un fronte. Sì, i tedeschi devono spiegarci a questo punto come vogliono far crescere l'Europa, perché finora da questa crisi gli unici che stanno crescendo sono loro, perché hanno tassi a zero, finanziano l'industria praticamente sotto costo quasi, e hanno un vantaggio enorme perché usano l'euro come stabilità valutaria, ma hanno dei tassi di prestiti bancari pari a zero. Mi dica una cosa però su questo, professor Togati, lei è arrivato a ipotizzare di ripudiare il debito come ha fatto l'Islanda. L'Islanda, cioè, gli sono 300.000 abitanti. Lo fece anche l'Italia durante il regime. Sì, ho capito, ma nel senso, vogliamo... No, voglio dire, è una questione concettuale. Lei si immagini, immaginiamo per un attimo, chiediamo ai suoi ascoltatori di immaginare per un attimo che il governo Papandreou, invece di dire che avrebbe fatto il referendum, avesse detto all'inizio di novembre, signori, spiacenti, non vi paghiamo. Cosa avremmo fatto? Mandato le Panzerdivisionen a occupare Rodi? No, lì sbarcarono, furono lanciati i paracadutisti, se non ricordo male, però su Rodi. Quindi lei dice, però questo avrebbe avuto un effetto sistemico sotto l'area euro? O... Appunto, ecco, in questo senso, lei ha colto perfettamente il punto che cercavo di fare, è in questo senso che la Grecia ha salvato l'Europa. Lei dice, la Grecia, accollandosi degli sforzi, è una cura da cavallo, che vediamo che non ammazzi anche il cavallo, ha evitato al resto d'Europa di finire a far volare gli stracci, perché poi a questo punto si sarebbero rotte anche alcune così alleanze di comodo, penso a quella franco-tedesca, quando i francesi avessero avuto lo spread a 200-300, probabilmente nemmeno loro ci stavano più dentro. È questo a cui lei... Decisamente questo, l'espressione la Grecia ha salvato l'Europa è ovviamente estrema, un'espressione più equilibrata, che peraltro poco mi si addice, direbbe che il baratro si è allontanato, adesso abbiamo del tempo per gestire questa situazione. E però noi abbiamo un debito forte nei confronti della Grecia, poche storie. Allora, io vedo alcuni ascoltatori che condividono in pieno, altri che dicono, ma insomma, che cosa dice? Un eretico? Noi invitiamo tutti, eretici, ortodossi, dolciniani, addirittura qualcuno dice una volta, per cui invitiamo tutti. E mi interessava anche l'opinione del professor Togati, che su questo appunto è un estremista al contrario, cioè lei è l'anti-Schäuble, no? Cioè, Schäuble vorrebbe, diciamo, far affondare la Grecia, così lei dice, ma la Grecia poteva evitare di pagare, pagatevelo voi, noi non vi paghiamo, e vediamo che succede a questo punto. Io sono dell'idea che non si sarebbe mai dovuti arrivare a incancrenire i rapporti europei per un paese come la Grecia, e questa è la poca lungimiranza tedesca. Staremo a vedere chi avrà ragione. Grazie, avete ragione, i paracadutisti tedeschi sbarcarono a Creta e non a Rodi, Rodi era già italiana, c'era quella della marcia su Roma, del vecchio se non ricordo male, adesso vediamo anche di andare a riprendere alcuni dati storici, grazie al professor Sdogati che insegna appunto economia politica al Politecnico di Milano. Vedo che sì. Gli avete anche suggerito di rispondere al citofono, non so se fosse un citofono o un trapano, ma al di là di questo, attenzione ai pensieri ortodossi, cioè, le posizioni ufficiali, le abbiamo dette più volte, che a questo punto la Germania debba spiegare che cosa vuole fare adesso sulla crescita, dopo che ci ha spiegato benissimo cosa non andava fatto sui conti pubblici, e la lettera degli 11 dei 12 paesi, compresa l'Italia, ma senza la Francia e la Germania, la dice lunga. Beh, questo è innegabile. I tedeschi, dopo aver fatto i maestri i primi della classe, devono adesso spiegarci dove porteranno, secondo loro, la classe, perché altrimenti non se ne esce. E il dato di oggi sul deficit greco lo dice lunga: la Grecia probabilmente non ce la farà a rispettare gli impegni presi, ma facciamo finta che sia così. C'è il metodo, la pubblicità, poi la borsa. 349-238-6666 per i vostri sms. Diciassette e 40 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, vedo che molti sono rimasti sconvolti dall'intervento del professor Sdogati. Allora, sì, i paracadutisti, ho detto io una cavolata, non sbarcarono a Rodi, che era italiana, il dodecaneggio era italiano, ma i paracadutisti tedeschi sbarcarono a Creta. Però attenzione, io non è che sposi la teoria di Sdogati, o ieri c'è stato un intervento secondo me molto bello di Mario De Aglio, questi microfoni, che ha detto vabbè, abbiamo messo la polvere sotto il tappeto, su, è inutile continuare a prenderci in giro. È vero quello che scrivono alcuni ascoltatori sia sugli sms che su Facebook, e cioè che la Grecia è tecnicamente fallita, ma è ovvio, quando tu non riesci, se tu come privato non riuscissi a ridare i debiti che hai contratto e ridai il 53%, è ovvio che sei tecnicamente fallito. Il problema è capire se continuiamo a mantenerla in vita artificialmente per lasciare i mercati tranquilli, gli spread riposizionarsi. A mio avviso non ci sono le condizioni perché la Grecia riesca a sottoscrivere il piano che ha, riesca a ottemperare il piano che ha sottoscritto, per cui su questo, ma spero di sbagliarmi. Intanto però commentiamo la borsa di oggi. Meno 0,92 Milano e anche Francoforte, meno 0,52 Parigi, meno 0,07 Londra, non poteva che essere meno 0,07 Londra, e ancora meno 0,30, questa è bruttissima, e meno 0,30% l'America. Come sempre con Radio Cori, Sole 24 Ore, ciao Condina, buonasera. Ciao, buonasera a voi. Allora, partiamo subito da Fondiaria Assai. Il numero uno di AXA è stato avvistato in piazzetta Cuccia, Henri de Castri, penso che si pronunci, quindi Mediobanca, tutti a ipotizzare che AXA volesse rilanciare su Fondiaria Assai, invece il comunicato di Mediobanca ha detto no, è solo una visita di cortesia. Eh sì, Henri de Castri, come giustamente l'hai pronunciato tu, diciamo è uscito con un no comment, ha comunque ribadito l'interesse nell'Italia, cosa che comunque aveva già dichiarato alla presentazione dei conti annuali del gruppo giorni fa, e comunque tuttavia il titolo è cresciuto, perché si era anche detto che AXA poteva lanciare un'OPA su Fonsai nei giorni scorsi, erano delle ipotesi di stampa su cui non c'erano state delle smentite ufficiali da parte del gruppo, e dunque il titolo oggi ha preso il volo, in particolare dopo che appunto è stata resa nota questa notizia, e ha messo a segno un guadagno del 4,7%. Allora, ancora vedo molti messaggi anche a favore invece di Sdogati, del partito ripudiamo il nostro debito, non il nostro, ragazzi, adesso si parlava del debito greco, cioè la Grecia avrebbe potuto dire: sapete che c'è, con queste condizioni noi non vi paghiamo. E l'Europa che faceva? I tedeschi che facevano? Vabbè, un'altra storia, un altro film. Mediobanca più 2,72%. E Mediobanca invece oggi ha dato i conti, dei conti sostanzialmente in linea con quelle che erano state le previsioni, il consensus del mercato. Tuttavia il titolo ha guadagnato insieme a Generali. Anche Generali nei giorni scorsi aveva perso terreno, diciamo il mercato stimava un possibile impatto negativo, un eventuale impatto negativo da una soluzione diversa al rebus di Fonseca, che non fosse la fusione con Unipol. Poi invece entrambi gli istituti oggi sono tornati a guadagnare. Comunque bellissima questa vicenda di Fondiaria Assicurazioni, cioè in questo paese conviene avere debiti, no? Se te li fanno fare, 1 miliardo di euro, quanto ha Ligresti? 1 miliardo? Beh no, diciamo solo nei confronti di Mediobanca. No, di Mediobanca, Mediobanca, 1 miliardo. No, questa dimostrazione che se devi indebitarti con le banche, è meglio che tu lo faccia per cifre enormi, perché se sei un piccolo imprenditore e vai a chiedere 500.000 euro di linea di credito, la risposta è no. Però se devi 1 miliardo a Mediobanca, Mediobanca si attiva giustamente per cercare di recuperarlo. Questa, insomma, too big to fail, diremmo anche in questo caso. E andando e lasciando stare un attimo Fondiere 6, Generali più 4,12% e se commenti anche Monte dei Paschi più 1,60%, grazie. Beh, Generali è stata penalizzata insomma nelle ultime sedute, anche perché si temeva, diciamo gli operatori del mercato temevano un possibile aumento di capitale della compagnia. Invece però oggi sul mercato si diffondono anche insomma delle indiscrezioni che un possibile decreto mille proroghe possa contenere delle agevolazioni sui coefficienti patrimonializzazione e sul Solvency 1, e quindi in maniera indiretta potrebbe anche allontanare una possibile ricapitalizzazione della compagnia. Quindi oggi Generali è stata la migliore, più 4,1%. Per quanto riguarda il Monte dei Paschi invece la storia è nota, la fondazione ha deciso di mettere sul mercato fino al 15% della banca. Novità di oggi, riportata da Sole 24 Ore, è che il dossier sia stato sottoposto alla famiglia genovese dei Malacalza, che è una delle famiglie più liquide d'Italia, e quindi insomma si continua a scommettere sulla cessione di questo pacchetto. Stanno cercando ingressi da tutte le parti al Monte dei Paschi. Dopo il traffico invece commentiamo anche Peugeot e General Motors, che hanno confermato l'indiscrezione di questa mattina, cioè stanno lavorando per una possibile aggregazione. Vediamo se vi è stato un effetto sull'intero settore. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per commentare la borsa. Vedo che ci scrivono anche da Francoforte sul Meno. Raffaello dice: gentile Barisoni, cerchi di moderare il tono antitedesco dei suoi commenti. La Germania sta facendo il possibile per salvare l'euro, se non ci riesce si torna alle valute nazionali. La Germania prospererebbe sicuramente se l'euro saltasse. Siamo sicuri? Cioè, non tono antitedesco, per carità, è un suo giudizio, io lo prendo come tale, ma siamo sicuri che se tornassimo alle valute nazionali la Germania con un marco forte, cioè un marco che vale come un euro, e la Spagna e l'Italia con una lira debole, la Germania ne avrebbe un vantaggio, visto che fa quasi il 60% di export in Europa? Non esporterebbe più neanche uno spillo. Non lo so, bisogna stare attenti. Che la Germania stia facendo il possibile per salvare l'euro mi sembra un po' forte. Dalla Germania sono arrivate più volte dichiarazioni, non mie, ma del ministro delle finanze Schäuble, che diceva: ma insomma la Grecia bisogna anche farla fallire, insomma mettere un commissario. Anche dall'Olanda non mi sembra che, il messaggio sia stato: salviamo l'euro solo a patto di fare come vogliamo noi. E ripeto, se i greci sono così scuri di carnagione e mediterranei, perché gli hanno prestato 30 miliardi di euro in questi anni le banche tedesche? Cos'è, si scopre che la Grecia è solo adesso la Grecia? Bah, senza volerli difendere, ma figuratevi se difende un paese che fa il 160% di debito, con l'evasione fiscale che è peggio di quella italiana e un pubblico impiego ipertutelato. Però ripeto, punire una cosa, umiliare un'altra. Ciao Condina, torniamo da te e andiamo a vedere invece le banche che hanno perso di più. Popolare Emilia Romagna meno 5,37%, Popolare Milano meno 4%, Unicredit meno 3,80%, Ubibanca meno 3%, come Intesa San Paolo. Beh, le banche avevano corso molto nelle ultime settimane. Per quanto riguarda l'ultima che hai detto, Intesa San Paolo, giusto per prendere uno spunto di cronaca di oggi, continua il dibattito all'interno delle fondazioni azioniste, l'attesa per quello che sarà il dividendo che verrà fondamentalmente erogato dalla banca. Quando era stato approvato l'aumento di capitale da 5 miliardi l'anno scorso, c'era stata una promessa dell'erogazione di un dividendo stabile nel lungo periodo, invece poi insomma i tempi sono cambiati e già il fatto che adesso ci sia un dibattito su quella che sarà l'entità della cedola sta a significare che qualche dubbio c'è sulla cedola stessa. Ancora sui titoli, vedo che Sdogati spopola tra gli sms. Adesso Sdogati non ha detto che i debiti non si pagano, ha detto poteva minacciare di non pagare. Tra l'altro comunque la Grecia il debito non lo paga in realtà, perché ne pagherà solo il 50%. Ora, se io ti devo, caro CEO, 1000 euro e te ne do 500, è difficile dire che ho pagato il mio debito. Insomma, dipende dai punti di vista. Andiamo dammeli tutti, insomma. Dammeli tutti, direbbe un altro. Però, allora, andiamo avanti con i titoli invece, perché settore auto, una novità forte è Peugeot, gruppo Peugeot Citroën, alleanza, si sta lavorando per un'alleanza con General Motors. Quindi grande fermento nel settore auto europeo, Peugeot ha ammesso di valutare progetti di cooperazione di alleanza, che le discussioni sono in corso, anche se non ha fatto espressamente il nome di GM, il nome di GM era stato fatto dalla Tribune, dal giornale francese, e questo ha portato ovviamente la maggior parte dei titoli quotati in Europa a salire, titoli delle quattro ruote. Fiat ha guadagnato oggi lo 0,97%, si va insomma verso quel consolidamento del mercato che qualche anno fa è il numero uno di Fiat. Marchionne si disse resteremo solo in 6 a livello mondiale, no? Tipo Highlander. Allora, Finmeccanica meno 5,26%. Devo dire che il titolo ha recuperato molto, moltissimo. È più 40% dall'uscita di Guarguaglini, se non ricordo male. Però c'è un'ipotesi anche qui presente oggi su Sole 24 Ore. Sì, di una golden share che potrebbe proteggere i gruppi italiani della difesa. Più che altro già ieri comunque il titolo aveva guadagnato l'11% sull'ipotesi dell'accrezione di un polo delle ferrovie, che poteva comprendere anche appunto il segmento ferrovie di Finmeccanica. Ma si è saputo niente di Ansaldo Breda, se la comprano la CDP? Novità per oggi non ce ne sono, insomma. Diciamo che il fondo strategico sta valutando diversi dossier, tra cui questo. Sì, un po' troppi secondo me, tutti vogliono un fondo strategico di Gono Tempini da qualche parte, però la Cassa Depositi e Prestiti non è la mamma di tutti i problemi italiani. Ma andiamo avanti, ne faremo una puntata su questo nei prossimi giorni. L'automatica meno 3%, Mediaset meno 2,70, Pirelli meno 2,40, Buzzi Unice meno 2,30, ST Microelectronics meno 2,12, Telecom meno 1,90, Banco Popolare meno 1,70, come Parmalat, 1,5% lo perde Enel e anche Prismian. Tra chi guadagna, oltre ai titoli citati, Tenaris più 1,40, Fiat più 0,90, Campari più 0,55, migliori e peggiori, Mondo TV più 24, Careself, c'è qualche novità? Più 15%. Non particolare oggi. Richard Ginori più 15%, Prelios più 10%, il peggiore in assoluto invece Seat Pagine Gialle meno 5,70 e Meridie SPA meno 6%, Seat Therapeutics meno 5,46%. Grazie a CEO Condina, Radio Cori sulle 24 ore. Manca Wall Street, avete ragione, come sempre, meno 0,33% adesso il Dow Jones, meno 0,50% l'indice Nasdaq. L'altra notizia del giorno riguarda appunto le agenzie di rating, sia per la Corte dei Conti del Lazio che sta indagando sul ruolo che hanno avuto le agenzie di rating nel dare giudizi sull'Italia, Moody's, Standard & Poor's e Fitch, ma anche perché l'agenzia di rating Fitch ha declassato il debito greco a livello giusto sopra, come ricordavamo, il fallimento, come dire, bene, bel piano, avete approvato in Europa, molti declassano il debito. Ci risentiamo dopo il GR 349-238-6666 per i vostri sms. 18:07 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, ancora sull'intervento del professor Sdogati, nessuno ha detto, poi la chiudiamo, che si possono non pagare i debiti. Si è solo detto che la Grecia poteva avere come arma di ricatto dire: guardate che o ci date modo anche di sopravvivere alla ristrutturazione, o se no il debito non ve lo paghiamo. E poi lì il cerino restava in mano all'Europa. Questa era la provocazione del professor Sdogati nel dire: non è l'Europa che ha salvato la Grecia, ma la Grecia che ha salvato l'Europa. Accettando queste misure e questa cura da cavallo, ha evitato che di nuovo l'Europa ripiombasse, se ho capito bene l'interpretazione di Sdogati, ripiombasse sotto l'attacco speculativo sui debiti. Questo era il suo ragionamento. Detto ciò, l'altra notizia del giorno riguarda le agenzie di rating, non solo perché Fitch ha abbassato il debito, il voto sul debito greco a un livello subito prima del livello default, fallimento, ma anche perché la Corte dei Conti del Lazio ha aperto un'inchiesta su Moody's, Standard & Poor's e Fitch per capire con i giudizi di solvibilità dell'Italia che effetto abbiano avuto, e ha già promosso audizioni informali. Allora, torniamo a occuparci di agenzie di rating e del loro ruolo, e partiamo come sempre da un nostro classico, direi, no? Quel pezzetto molto bello di Inside Job, quindi un film che a noi piace molto e che ha anche vinto il premio Oscar come miglior documentario. Visto che poi ce lo chiedete sempre, l'autore del film è Charles Ferguson, e il film è dedicato alla crisi del 2008. Questo è il passaggio su come si erano comportate le agenzie di rating negli anni precedenti. Le tre agenzie di rating, Moody's, Standard & Poor's e Fitch, guadagnarono miliardi dando il massimo dei voti a titoli rischiosi. Moody's, la più grande agenzia di rating, quadruplicò i suoi profitti tra il 2002 e il 2007. La Moody's e la Standard & Poor's venivano ricompensate sulle basi dei rating che davano, e più AAA davano, più alti erano i guadagni per la società. Immaginate di andare al New York Times e di dire: se mi scrivete un articolo positivo vi pago $500,000, se non lo fate non vi do niente. Le agenzie di rating avrebbero potuto interrompere la festa e dire: ci dispiace, dovremmo alzare i nostri standard, e tagliare immediatamente il flusso di finanziamenti verso mutuatari rischiosi. Gli strumenti valutati con la AAA passarono da una manciata a migliaia e migliaia. Centinaia di miliardi di dollari venivano valutati ogni anno? Ogni anno, sì. Ho testimoniato di fronte al Congresso e alla Camera dei rappresentanti sul problema delle agenzie di rating. Ed entrambe le volte i loro avvocati hanno tirato in ballo il primo emendamento, rivendicando il fatto che il loro giudizio di AAA era solo la loro opinione e che le persone non dovevano basarsi solo su di essa. I rating esprimono un'opinione. I nostri rating sono la nostra opinione. Opinioni. Opinioni non sono altro che opinioni. Credo che abbiamo enfatizzato il fatto che i nostri rating sono opinioni. Eh sì, perché anche oggi è arrivato un altro giudizio, questa volta è la terza delle tre agenzie di rating. Si tratta della francese Fitch, ha abbassato il voto della Grecia da tripla C a singola C, che per tradurre vuol dire livello immediatamente superiore al default, quindi al fallimento. Di agenzie di rating abbiamo parlato moltissimo in queste settimane, intanto perché loro ci hanno fornito notizie: l'abbassamento del voto al livello del debito italiano, ma anche francese e spagnolo, e poi perché a molti, per usare un eufemismo, è sembrato il loro timing, come direbbero, il loro intervento, molto molto specioso. C'è chi ha detto: quando i paesi si mettono a fare le riforme, come nel caso dell'Italia, ecco che arrivano le agenzie di rating al soldo delle grandi finanze anglosassone, dei fondi di investimento che sono dentro il loro capitale, per tenere basso l'euro, per tenere debole l'intera area della moneta unica. E allora ne parliamo, oltre che parlare anche del livello dei debiti sovrani che si vedono in giro, con una nostra vecchia conoscenza, perché da tanti anni è responsabile di Standard & Poor's Italia, la dottoressa Maria Pierdicchi. Buonasera innanzitutto. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, non è nella tana del lupo, non si preoccupi, però vorremmo sapere un paio di cose. Innanzitutto, poi arriviamo anche al giudizio sulle agenzie di rating. Prima restiamo sui vostri giudizi sui debiti sovrani. Abbiamo visto, nonostante i tentativi in Europa, e mi riferisco a Spagna e Italia in primo luogo, ma non solo, di fare riforme e un accordo europeo, il cosiddetto Fiscal Compact, che dovrebbe portare a un maggior rigore nel bilancio, abbiamo visto, dicevo, tutte le agenzie peggiorare il loro giudizio sull'area euro, sui debiti dei paesi dell'area euro. Cos'è? Arrivate tardi o siete preveggenti? Ma guardi, ci accusano di arrivare tardi o di arrivare troppo presto, non c'è mai un tempismo perfetto per il rating. Noi cambiamo il rating quando gli eventi, le nostre analisi, sulla base dei nostri criteri pubblici e disponibili a tutti, indicano una variazione del merito di credito. In particolare le azioni di gennaio, che riguardano 15 stati in Europa, hanno a che fare moltissimo con le problematiche di governance europea, cioè col fatto che non si era trovato un accordo sulle modalità di intervento di crisi sistemica, sulle risorse da mettere sul tavolo e via dicendo. Quindi hanno a che fare molto più con questo e come questo impattava il rating dei singoli paesi. In particolare per l'Italia abbiamo senz'altro osservato l'importanza dei cambiamenti importanti che il nuovo governo da poco insediato aveva iniziato a fare, ma dall'altro lato abbiamo dovuto anche osservare che c'era una vulnerabilità esterna al finanziamento esterno dovuta a un assottigliamento degli investitori internazionali che contano per il 60% del nostro debito, una mole notevole di debito da rifinanziare. Ricordiamo, l'Italia è il terzo debitore al mondo, quindi un rischio di rifinanziamento maggiore, soprattutto perché le entrate derivanti, diciamo, dall'estero non sono certamente adeguate a poter pagare gli interessi che oramai si erano stabilizzati a livelli piuttosto alti, quindi con un effetto che aggrava una situazione anche di crescita negativa che si è venuta a stimare solo negli ultimi mesi. Quindi questi sono i fattori fondamentali. Però vorrei ricordare che quello che noi chiamiamo lo score politico non è variato per l'Italia, ma è variato fondamentalmente lo score esterno, cioè la maggiore vulnerabilità al finanziamento estero. Allora, tra l'altro questo in un giorno in cui stiamo, tra virgolette, festeggiando un forte ritorno, il dato della Banca d'Italia, di acquirenti internazionali sul debito italiano, questo a dire che potreste rivedere in meglio il vostro giudizio? Guardi, un rating è sempre una valutazione a medio termine. Ad oggi abbiamo una tripla B più con outlook negativo, proprio perché andremo a osservare lo sviluppo di questi fattori europei e anche non europei, però certamente continuiamo a monitorare la situazione. Ricordiamo che noi non variamo, cerchiamo di variare il rating quando ci sono degli andamenti, dei dati fondamentali che cambiano le nostre opinioni su quelle cinque aree. Non è vero che c'era un fattore Berlusconi nel rating dell'Italia, cioè il fattore politico c'è o non c'è? Il fattore politico c'è stato nelle prime decisioni di abbassamento, senz'altro. Il political score è stato sicuramente uno dei fattori di debolezza del primo abbassamento di rating, ma non lo è stato in questo caso nell'abbassamento di rating di gennaio, che non ha variato il cosiddetto political score. Ma Monti vi piace di più perché parla bene inglese, perché conosce bene il vostro mondo? Ma noi guardiamo, non diciamo chi ci piace e chi non ci piace, noi ci limitiamo a guardare le azioni di politica economica e come queste si inseriscono in un contesto europeo di eurozona che oggi è molto, molto congiunto all'andamento dei singoli paesi. Ricordiamo che stiamo vivendo degli anni in cui tutta l'eurozona ha subito delle grosse incertezze, a iniziare dalla situazione greca, che vorrei ricordare Standard & Poor's ha prontamente segnalato con i primi abbassamenti già qualche anno or sono. Ma secondo lei, cioè, noi abbiamo un livello del voto, un voto sul debito che è a livello di Perù, Kazakistan o giù di lì, Colombia, cioè, è difficile anche far passare il messaggio che l'Italia, pur con tutti i suoi problemi, con un debito che lei ricordava che è il terzo livello mondiale, abbia un'affidabilità su quello che poi è il suo debito sovrano così basso o no? Oppure... innanzitutto una tripla B più è un investment grade, non ci sono problemi di solvibilità dell'Italia, i nostri analisti lo hanno ribadito ampiamente, certamente è ancora un livello solido che si appoggia anche sulla grossa diversificazione industriale dell'Italia, sul basso risparmio, sul basso debito privato, su altri fattori di stabilità. Però dobbiamo anche ricordare che il rating e la valutazione capacità di rimborso, il debito, il rapporto debito PIL è oltre 120%, è chiaro che questo rapporto è incompatibile con una categoria A secondo i nostri criteri e che la riduzione di questo debito in un contesto di recessione è complessa, è difficile da immaginare, quindi questo è quello che sottende fondamentalmente questa variazione. Ciò nonostante, l'Italia rimane un paese forte sotto molti fronti e soprattutto guardiamo favorevolmente alle importanti azioni strutturali che il nuovo governo ha subito iniziato a mettere in atto, e le monitoreremo. Allora, adesso ci sono le informazioni sul traffico, poi c'è la parte più delicata di questa intervista, dottoressa, perché verremo anche alle critiche, alle polemiche che vi hanno coinvolto, se non dico travolto, ma sicuramente coinvolto. 349-238-6666 per i vostri sms. Traffico. 18:20, dunque, alla numero uno di Standard & Poor's Italia. Le polemiche di queste ultime settimane, forse forti nei vostri confronti come agenzia di rating, quanto non mai. Allora, chiarisco subito, a me non è che piaccia vedere che quando uno prende un brutto voto critica il professore. Sarebbe bene criticare il professore quando prende un bel voto, lo dico anche nei confronti delle agenzie di rating. Però, obiettivamente, quando leggiamo il motivo per cui avete abbassato il voto all'Italia, di questi analisti che stanno all'estero, sembra di leggere dei compitini, delle cose che qualunque lettore medio di un giornale saprebbe dire, qualunque ascoltatore penso di Focus Economia saprebbe dire. Cioè, dov'è il valore aggiunto della vostra analisi? Come ricordava il professor Masciandaro in un articolo, in un commento molto bello su Sole 24 Ore, cioè o l'agenzia di rating mi dà, ha delle informazioni in più e quindi il suo report, la sua analisi ha un valore aggiunto, o se no a che serve, per certificare quanto abbiamo già raccontato? Io lo chiederei agli investitori, vede, noi valiamo e possiamo vendere il nostro servizio solo se gli investitori lo ritengono utile. Siamo indipendenti e dobbiamo dare un'indicazione per le loro scelte di portafoglio. Se gli investitori utilizzano il rating, allora esso ha un valore informativo. Ovviamente gli investitori non devono usare solo il rating, hanno molte altre misure, molte altre valutazioni interne e esterne, però certamente gli investitori difficilmente potrebbero operare nei loro portafogli senza questa misura sempre semplice, universale, che si applica a tutte le classi di attivo in tutti i paesi con gli stessi criteri, le stesse metodologie. È un linguaggio semplice, universale, che aiuta gli investitori nelle loro scelte. Certamente siamo d'accordo che il ruolo del rating non deve essere né automatico né incluso nelle regolamentazioni. Dobbiamo evitare che gli investitori usino meccanicamente il rating, perché il rating è solo un indicatore di merito di credito e non di altri fattori importanti. Quindi secondo lei siamo noi che diamo troppa importanza? Cioè, noi come Europa, per esempio, nelle regole anche di Basilea 3 per quello che è la qualità del credito bancario, ci diamo troppa importanza a voi, agenzie di rating? Io credo che sicuramente questo ruolo regolatorio del rating noi non lo abbiamo chiesto, è stato scelto dai regolatori evidentemente perché trovavano un utilizzo nel rating. Va depotenziato, come giustamente il professor Draghi aveva messo in evidenza subito nel suo mandato di presidente del Financial Stability Board, va eliminato dalle regolamentazioni proprio per evitare un uso meccanicistico e un eccessivo affidamento. Ciò nonostante, bisogna preservare il valore indipendente del rating, il suo valore informativo, attraverso una maggiore trasparenza, attraverso l'integrità dei processi di rating, che ricordo i regolatori supervisionano. Noi oggi siamo continuamente supervisionati. Ho capito che dice lei, ma quindi avete troppo potere? Cioè, vi abbiamo dato troppo potere? In qualche modo abbiamo dato agli investitori forse una scusa a utilizzare il rating invece delle proprie valutazioni. Questo è stato facile anche in momenti di mercato molto positivi. Oggi dobbiamo tornare, ma già gli investitori sono tornati potentemente a utilizzare le loro valutazioni. Alcuni investitori non usano il rating, usano altri indicatori, altri lo utilizzano. Per cui, cioè, ferma restando, diciamo, la vostra indipendenza, però lei è d'accordo nel dire non depotenziate quello che è il nostro ruolo poi nella formulazione di un giudizio? Assolutamente sì, eliminiamo il rating dalle regolamentazioni e lasciamo che ogni agenzia, in condizioni di concorrenza e di pari condizioni di concorrenza, concorra secondo il valore che dà agli investitori. Se siamo bravi ci utilizzeranno, se non siamo bravi non ci utilizzeranno. Le posso assicurare che molti investitori utilizzano tuttora il rating proprio per il valore che esso ha. Ecco, nel concludere, no, ho capito benissimo, cioè, devo dire che è una posizione che mi vede, per quel poco che conta il mio giudizio, molto d'accordo, e cioè voi continuate a fare il vostro lavoro, se posso sintetizzare, noi utilizziamo anche altri strumenti, da lì l'idea di un'agenzia di rating addirittura europea, lei è d'accordo? Io sono d'accordo per la concorrenza. La concorrenza, anche se su base, diciamo, statale. La concorrenza fa bene al settore, favorisce l'innovazione, favorisce una maggiore capacità di analisi e via dicendo. Dico però che bisogna stare attenti, che non è che qualsiasi concorrente può in poco tempo sviluppare quel tipo di copertura, ma di analisi e via dicendo. Per una standard impulso europea? Ma io cerco di fare il mio lavoro al meglio dove posso. Non ne può più di fare l'impulso, vero? No, ce lo dica. No, invece una cosa volevo sapere. Lei è più in difficoltà, cioè, da un punto di vista della sua attività professionale, ci mancherebbe, nel dare un giudizio a un cliente che poi paga per questo giudizio? Cioè la critica che viene fatta delle volte è: attenzione, tu dai un giudizio a un cliente che ti paga per questo giudizio, quindi tendi ad avere, soprattutto nel privato, ad avere anche un certo interesse a formulare un giudizio più buono se lui è un cliente storico, oppure è più in difficoltà nel sapere che dentro l'azionariato di Standard & Poor's ci sono molti fondi comuni di investimento che possono avere un interesse nel sapere prima, o diciamo ad avere una certa tendenza nel voto su singoli paesi o singoli stati? Ma guardi, da cittadina le dico, se ci fossero veramente dei conflitti di interesse sarei la prima a dire assolutamente non può stare un'agenzia che ha dei conflitti di interesse sul mercato. In realtà i conflitti di interesse sono presidiati molto bene, gestiti molto bene dalla regolamentazione. Chiediamolo ai nostri emittenti, questa è una cosa che io vorrei suggerire a voi giornalisti, vogliamo chiedere agli emittenti se sentono che noi siamo così in conflitto di interesse, quando ogni volta che facciamo, come radio? No, gli emittenti, gli emittenti di debito, quelli che emettono debito, i soggetti di cui, a cui assegniamo il rating, vorrei che a volte chiedeste anche a voi se pensano che noi siamo in conflitto di interesse. Se fossimo così tanto in conflitto di interesse non credo che avremmo fatto il downgrade degli Stati Uniti, essendo spesso tacciati da agenzia americana. Ma ha detto che vuole anche lui un'agenzia tutta sua. Lei teme che le agenzie tutte nazionali poi possano essere più buone con i governi di cui sono espressione? Io dico che qualsiasi modello di business ha dei conflitti di interesse. Un'agenzia europea o pubblica ha un conflitto di interesse quando fa il rating agli stati. Un modello di business basato sugli investitori che pagano invece che gli emittenti ha altri conflitti di interesse, perché gli investitori, peraltro con grandissimi portafogli, possono avere più interesse a influenzare il rating. Il problema è come gestire i conflitti di interesse, fare in modo che questi non inficino l'integrità del processo di rating, e posso assicurare che le regole a cui noi siamo sottoposti sono veramente molto ferree, con separazioni totale tra attività commerciale e analitico, il meccanismo dei comitati per cui nessun singolo analista può influenzare il rating, ma anche il fatto che noi viviamo della nostra reputazione, quindi se i nostri rating fossero sempre afflitti da conflitti di interesse non sarebbero alla fine dei rating utilizzati in maniera utilizzabili, perché sarebbero di per sé diciamo distorti, e siccome la nostra reputazione è troppo grande per poterla è troppo importante per poterla distruggere. Stavo per fare una battuta ma mi sono fermato. No, la dottoressa Pierdichi, lei è molto brava, altrimenti non avrebbe resistito a Parmalat, Subprime e quant'altro in questi anni, però una autocritica me la fa? Non perché sia appena passato San Valentino, non è questo. Cioè, una cosa che avete sbagliato, dove forse siete stati poco attenti, non solo a comunicare, cioè non è solo che vi disegnano così, magari lo siete anche un po'. No, ma io credo che tutti, diciamo, siamo passati attraverso una crisi difficile, dove non è sempre stato è stato difficile a volte interpretare i cambiamenti che avevamo di fronte, quindi non c'è dubbio che alcune crisi sistemiche, per esempio nel mercato del supply, siano state difficili da noi da prevedere. Sto cercando di dire che comunque il processo di rating ha dei meccanismi di di preservazione dell'indipendenza, che questa indipendenza è spesso scomoda perché è facile accusare le società di rating di fenomeni di cui si misurano francamente solo l'impatto sulla qualità del credito. Allora io ringrazio Maria Pierdicchi, numero uno di Standard & Poor's Italia, per la disponibilità. Ho un déjà vu, glielo devo dire, ma lei forse non capirà il mio riferimento. Mi sembra un po' De Vita, ogni tanto ho degli interlocutori da cui non riesco a ottenere quello che voglio, ma questa è una mia frustrazione. Grazie al numero uno di Standard & Poor's Italia. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, vi lascio alla nostra programmazione. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.